9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon mercoledì 9 febbraio. Il tema che ci poniamo oggi è del tutto parallelo, coordinato per così dire, con il Consiglio dei Ministri che oggi è in corso, proprio in questi minuti, in queste ore. Il Consiglio dei Ministri, lo sappiamo, col quale il governo ha annunciato una frustata all'economia. La frustata all'economia vedremo in che cosa consisterà, ci sono molte anticipazioni, un ritocco alla Costituzione in tre articoli: l'articolo 41 per metterci la libertà d'impresa, la pubblica amministrazione, l'articolo 97 per metterci il merito nella pubblica amministrazione, l'articolo 118 in materia di sussidiarietà. Si aspettano poi anche degli interventi, vedremo quali, in merito a per esempio sblocco degli incentivi per innovazione e ricerca tecnologica alle imprese, per l'IRAP al sud con i fondi FAS, vedremo. Ma uno dei punti di fondo sui quali da anni ci si interroga nel nostro paese è relativo al ritardo rispetto al quale noi non riusciamo a porre un rimedio per la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali nel nostro paese, opere infrastrutturali di tipo stradale, autostradale, ferroviario da una parte. Ricordiamo i tempi terribili della Salerno-Reggio Calabria, se va bene l'attuale cronoprogramma è il 2017. Pensiamo a infrastrutture ferroviarie come la TAV, la Torino-Lione, che da anni divide il dibattito politico in Piemonte e a livello nazionale. Pensiamo all'autostrada tirrenica, che anche in quel caso alimenta da anni polemica. A cosa ci è voluto per fare la variante di valico per il collo di bottiglia appenninico tra nord e sud. Poi ci sono le infrastrutture energetiche, e pensiamo solo al grande dibattito aperto per il ritorno al nucleare, che tenacemente indicato dall'attuale governo, in ritardo a sua volta sulle condizioni poste per riavvicinarci al programma nucleare. E poi ci sono anche infrastrutture per esempio nel campo delle telecomunicazioni, pensate all'agenda digitale di cui abbiamo parlato pochi giorni fa in occasione della pubblicazione sul Corriere della Sera con una pagina a pagamento di un appello firmato da 100 sottoscrittori, che ne hanno naturalmente pagato di tasca propria la pubblicazione. Io sono uno dei 100. Stamattina, proprio subito dopo la trasmissione, faremo una manifestazione pubblica al macro di Roma, via Reggio Emilia, per richiamare l'attenzione della politica sul fatto che siamo rimasti l'unico grande paese a non avere una agenda digitale, e anche in quel caso c'è un problema aperto sia per la copertura del digital divide, la vasta parte di popolazione italiana che rimane con una velocità di trasmissione bassissima nell'ambito di poche decine di kilobyte rispetto al minimo di 2 mega che sarebbero necessari, perché sappiamo perfettamente che poi la velocità in upload e download è molto più bassa. Ma la realtà è che bisognerebbe pensare a un programma per il quale si arriva alla banda larghissima di decine di mega a disposizione per scaricare rapidamente, mettere in rete rapidamente i video e scambiare dati, perché questo serve a innalzare la produttività delle piccole imprese italiane. Ecco, su questi tre grandi esempi di infrastrutture strategiche il nostro paese non riesce a trovare norme legislative e buone pratiche amministrative che consentano in maniera ordinata e soprattutto rapida nel tempo, in maniera tale da consentire il principio della leale cooperazione tra Stato centrale e autonomie, perché noi abbiamo cambiato la Costituzione con il titolo quinto, non è più lo Stato l'unico depositario dell'interesse nazionale strategico, quindi nemmeno per le grandi opere che ricadono nella categoria delle grandi opere nazionali e strategiche. Bisogna realizzare un principio di leale cooperazione con le regioni e con i comuni interessati. Questo principio di leale cooperazione deve non solo coinvolgere nei diversi livelli di valutazione ambientale, culturale, dei costi rispetto ai benefici, degli oneri di compensazione, tutte le diverse amministrazioni interessate. Deve anche, come insegnano casi come quello della TAV, coinvolgere in maniera temporalmente limitata ma efficace la rappresentanza delle popolazioni e della società civile in questo processo di consultazione. Dopodiché bisogna avere anche però, oltre a tempi rapidi che servono, oltre alla certezza del ritorno sugli oneri e su poi tariffe e ritorni delle opere, questi tempi rapidi servono per il coinvolgimento dei capitali privati, visto che lo Stato ha oramai di fronte a sé un orizzonte di risorse scarse, bisogna il più possibile pensare a opere di questo genere realizzate in partnership pubblico-privato, e per la partnership del capitale privato, in un mondo che resta ricco di liquidità e di opzioni di investimento, ma gli investimenti devono avere tempi e costi rapidi perché consentano a chi decide l'allocazione dei capitali di decidere se conviene o meno. Infine, devono essere in grado queste procedure anche di assicurare che non ci sia una superlevazione dei costi, che invece è un'altra prassi italiana. Rispetto ai costi dei progetti preliminari, i costi quando si passa al definitivo e alla realizzazione del definitivo si moltiplicano per un fattore 5, 6, 7, 8, 10, a volte 20, perché ci sono non solo gli oneri compensativi largamente sottovalutati, ma perché poi le realizziamo queste opere con delle tecniche di aggiudicazione per appalto e subappalto che spesso sono improntate a criteri tali per cui in realtà per strada il costo cambia. Come vedete, sono tutte cose che apparentemente sono noiose, ma sono le condizioni attraverso le quali un buon ordinamento, nel suo impianto costituzionale, nel suo impianto di legislazione ordinaria, nel suo impianto di legislazione di competenze amministrative e regolamentari, riesce a fare la differenza oppure no rispetto a una delle condizioni fondamentali dello sviluppo. In un paese che ha investito sempre di meno, perché per contenere la spesa pubblica è stata la quota di spesa per investimenti pubblica la più tagliata, il paradosso di questi anni è stato che decine e decine di miliardi di euro a disposizione per fondi o italiani o europei non sono stati utilizzati rispetto a programmi di opere definite strategiche con la legge obiettivo, perché la conflittualità innanzitutto costituzionale tra regioni e Stato e poi perché le procedure ordinarie e straordinarie con la legge obiettiva poste in essere non si sono rivelate in grado di portare a casa nessuna di questi risultati, che sono quelli, diciamo così, fondamentali perché un paese possa avere la possibilità di decidere, realizzare nei siti giusti, con il giusto coinvolgimento dell'opinione pubblica, con la leale cooperazione delle amministrazioni, ma poi avercele queste opere. Siamo diventati un paese che dibatte, siamo diventati un paese di fortissima conflittualità, che le opere poi alla fine le tiene sulla carta e si divide nella colpa di chi non le ha realizzate di volta in volta quando cambia il colore politico dei governi. Ultima osservazione, proprio la settimana scorsa ancora, in relazione esattamente alle impugnative fatte da 13 regioni, pensate alla legge delega con la quale è stato attribuito al governo i compiti fondamentali per porre i paletti legislativi e amministrativi per il ritorno al nucleare, la Corte Costituzionale si è pronunciata proprio su questo punto fondamentale e la Corte Costituzionale ancora una volta è tornata, perdonatemi, su un punto che già più volte dalla legge obiettivo in avanti l'ha costretta a intervenire su queste norme che non sono efficienti, stabilendo un principio per il quale effettivamente per l'individuazione dei siti delle nuove centrali nucleari, accogliendo quindi delle 13 regioni l'obiezione fatta da 3 di queste regioni su un punto fondamentale, tutti gli altri le ha respinte, ma su un punto fondamentale la Corte Costituzionale è tornata a dire ci vuole il principio della leale cooperazione, quindi la regione va coinvolta. Naturalmente alcune regioni l'hanno identificato di nuovo come un principio che consentirà il diritto di veto e quindi c'è una grande preoccupazione di nuovo, al di là di come la pensiate sul nucleare o meno, perché ci ripropone il punto, ed è un punto, ripeto, che ha al nostro esame innanzitutto norme costituzionali, perché stiamo parlando del titolo quinto, quello uscito dalla riforma a maggioranza del 2001 e che disegna la competenza concorrente tra Stato e Regione, l'articolo 117, in una maniera purtroppo che consente qualunque tipo di conflittualità, e poi ascendere alcune procedure non solo costituzionali ma di legislazione ordinaria e amministrativa di fronte alle quali un paese serio direbbe mettiamo l'arma al piede, a prescindere da come la pensiamo su questa o quella quella opera e poniamoci il problema di che cosa bisogna cambiare. È uscito un paper tempo fa realizzato dall'Astrid. L'Astrid è una meritoria associazione fondata da esperti di diritto costituzionale e amministrativo appassionati alla manutenzione e al miglioramento delle norme del nostro paese per consentirci di capire dove non funzioniamo e dove cambiarle. E c'è un paper proprio di cui parleremo oggi, perché mi ha molto colpito, perché sono un centinaio di pagine con la migliore analisi che io abbia mai letto, approfonditissima, di come funziona oggi il processo ordinario, semistraordinario, eccetera, per ogni tipo di infrastruttura, legge, obiettivo e costituzione alla mano, e fa un'osservazione comparata dei maggiori paesi in cui l'esperienza ed efficienza sono in grado di dirci come una classe politica seria potrebbe cambiare le norme ottenendo l'effetto di metterci in condizione di realizzare esattamente le opere che noi non abbiamo. Per questo abbiamo invitato qua questa trasmissione Franco Bassanini, innanzitutto, che è il presidente della Cassa Depositi e Prestiti ed è il presidente anche della Fondazione Astrid, ne è stato fondatore. Io lo saluto e lo ringrazio. Buongiorno professor Bassanini. Buongiorno Oscar, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Abbiamo Carlo Stagnaro, che è direttore ricerca e studi dell'Istituto Bruno Leoni, che ha rilasciato un commento positivo alla luce proprio di come funziona la normativa italiana anche di questa sentenza della Corte della settimana scorsa. Buongiorno Stagnaro. Buongiorno. Allora, cominciamo Bassanini, il nostro pubblico non è di iperaddetti ai lavori, ma tentiamo di far capire, perché dopo un centinaio di pagine di analisi, alla fine il paper identifica in poche proposte cosa andrebbe fatto per ottenere questo ideale cornice un pochino più efficace di quella che abbiamo. Dove bisognerebbe mettere le mani, a che diversi livelli? Beh, intanto io vorrei dire che rispetto a quel paper che è di quasi un anno fa, abbiamo continuato a lavorare, abbiamo lavorato adesso anche insieme ad altre due fondazioni sotto la regia del vice ministro Castelli, vice ministro delle infrastrutture, e a quelle proposte nostre che sono state condivise se ne sono aggiunte diverse altre, perché nell'approfondimento del lavoro sono venuti fuori tutta una serie di altri punti, poi magari ne parleremo. Quelle proposte non esauriscono ovviamente il quadro dei rimedi a questo problema che tu hai benissimo descritto nella introduzione a questo dibattito. Sottolineo intanto un punto, sul punto che può sembrare più impegnativo, la modifica della Costituzione, e io ho registrato un consenso generale. Quando abbiamo discusso in un seminario a porte chiuse quel paper, c'erano esponenti di tutti i partiti rappresentati in Parlamento, da Maurizio Gasparri, Altiero Matteoli, fino ad Enrico Letta e Anna Finocchiaro, tutti, compreso i leghisti, e questo è significativo, accettano l'idea che l'articolo 117 va corretto, sciogliendo il nodo di queste competenze concorrenti in settori come quello delle grandi infrastrutture, dell'energia e dell'ordinamento della comunicazione, che quantomeno in un paese come il nostro, ma anche in molti altri paesi federali, devono essere di competenza legislativa dello Stato e non di competenza mista concorrente tra Stato e Regioni. Quindi ci sarebbe un accordo generale. Perché, per far che capiscono chi è a casa, nel nostro ordinamento, cambiando il titolo quinto, non abbiamo messo quello che c'è in tutti i paesi federali nella loro Costituzione, quella che si chiama la clausola di supremazia, cioè delle opere di fronte alle quali lo Stato decide. La clausola di supremazia è sino qualcosa di più. La clausola di supremazia che c'è nella Costituzione federale tedesca, che non c'è in quella americana, ma fu inserita dalla Corte Suprema già all'inizio dell'Ottocento, dice che quando sono in gioco interessi generali, nel caso tedesco si dice l'unità giuridica ed economica della federazione e i diritti universali dei cittadini tedeschi, il legislatore federale, quindi il legislatore di Berlino, in Germania, o quello di Washington negli Stati Uniti, può intervenire anche nelle materie di competenza degli stati o dei Länder. Questa è la clausola di supremazia. Nel nostro caso in più c'è che parlare di grandi infrastrutture di interesse nazionale, di grandi reti e attribuirle ad una competenza mista vuol dire impedire di decidere quali sono le grandi infrastrutture che non sono rilevanti tanto per l'interesse di questa o di quella regione, ma per il paese nel suo insieme. Perché finora non si è fatto, pur essendo apparentemente tutti d'accordo? Io ho una mia opinione molto convinta. Non si fa perché se si aspetta di inserire questa modifica costituzionale dentro una riforma generale della seconda parte della Costituzione, noi non ci arriviamo mai, perché nella riforma generale della seconda parte della Costituzione ci sono argomenti sui quali lo scontro politico è quasi inevitabile, no? I poteri del Premier, la devolution, questo e quell'altro. Bisognerebbe fare una cosa molto semplice che negli Stati Uniti si fa da due secoli e mezzo quasi, e cioè si fa una riforma costituzionale puntuale, si cambia intanto quel punto, su quel punto siamo d'accordo, facciamo una leggina costituzionale, un treno con un solo vagone e col divieto di attaccarsene degli altri, che quindi arriva rapidamente, in 4 mesi questo sarebbe possibile. Risolve tutti i problemi? No, non risolve tutti i problemi, perché non evita che comunque un potere sull'assetto del territorio, un potere, diciamo, chiamiamolo urbanistico, regioni ed enti locali lo conservano comunque anche se cambiamo l'articolo 117. A questo punto la modifica da fare diventa però, a mio avviso, a nostro avviso, molto semplice. La prima volta l'abbiamo già proposta invano 7-8 anni fa, ed è quella di stabilire una procedura per cui a questo punto lo Stato, quindi può essere il CIP, il Consiglio dei Ministri, decide quali opere si fanno. Si fa la Livorno-Civitavecchia, si fa la Livorno-Civitavecchia. Devono fare nel paese 5 centrali nucleari, ammesso che si superino le obiezioni, che so, di Alberto Clò ormai sulla convenienza economica. Bene, si decide, il governo decide nella sua competenza, e dopodiché si decide anche la localizzazione di massima di queste opere. È compito del governo, le loro caratteristiche, la loro localizzazione di massima, le caratteristiche dei siti. È chiaro che la Livorno-Civitavecchia deve collegare Civitavecchia a Livorno, non può andare a spasso per gli Appennini. I siti nucleari sono in numero limitato perché ci sono delle caratteristiche, non devono essere zone sismiche, ci deve essere acqua, eccetera, eccetera. A questo punto la procedura che la Corte Costituzionale, vada bene, non poteva inventarsi, questo è compito del legislatore, finché non c'è la Corte Costituzionale non può che fare appello alla leale collaborazione, è compito del legislatore. La procedura potrebbe essere molto semplice, nel senso che il governo decide quali opere si fanno, quali sono le loro caratteristiche e quali sono le localizzazioni ottimali. Le regioni hanno un tempo predeterminato, 4 mesi, 3 mesi, 6 mesi, per fare la scelta della localizzazione o del tracciato definitivo, consultando le popolazioni attraverso meccanismi che potrebbero essere tipo il débat public francese, che consente una consultazione ma regolata nei tempi, regolata nella definizione delle informazioni che devono essere fornite ai consultati e così via. In questa consultazione sente anche, riunisce una conferenza dei servizi gli enti locali, ma con due regole. Il primo, che se non decidono entro il termine previsto, decide il governo. E questo è previsto già nell'attuale testo della Costituzione, l'articolo 120, in caso di inerzia delle regioni può decidere il governo utilizzando poteri sostitutivi. La seconda regola è che le decisioni che si prendono sulle localizzazioni puntuali o sul tracciato non possono aumentare il costo dell'opera più di una certa percentuale rispetto alla localizzazione ottimale, al tracciato ottimale. Decidete di mettere una centrale nucleare in un punto che non è proprio dove passa una linea ad altissima tensione, ma che richiede di costruire altri 30 km di linea ad altissima tensione, benissimo. La cosa si può fare si resta nei limiti del, non so, si decide del 15% di aumento del costo in più, ma vi giocate allora il 15% che potrebbe essere utilizzato per opere compensative. Questo servirebbe a dare certezza, perché oggi il problema che trattiene gli investitori privati, che come tu dicevi sono assolutamente necessari, visto che la finanza pubblica non consente di finanziare gran parte delle grandi opere, è che non c'è certezza né sui tempi e quindi sui tempi del ritorno dell'investimento, della redditività dell'investimento, né sui costi, che invece si avrebbe dicendo il costo è quello dell'opera come definita dal CIPE nella sua localizzazione ottimale senza opere compensative più un massimo del, diciamo, 15%. Allora si possono fare i conti. Naturalmente il bando di gara per la concessione andrebbe fatto sul progetto sostanzialmente definitivo, quello che esce dalla conferenza dei servizi, dalla decisione della regione entro il termine o dalla decisione sostitutiva del governo, in modo che si fa sul costo reale, e a quel punto bisognerebbe inserire delle norme che consentano revisioni dei prezzi da parte dell'impresa che ha vinto la gara per i lavori soltanto in un numero molto limitato di casi assolutamente imprevedibili ed eccezionali, in modo da evitare quello che accade spessissimo in Italia, che si costruisce l'alta velocità all'inizio pensando di spendere 100 e poi alla fine si spende 500. Allora, questo duplice pilastro, una riforma puntuale dell'articolo 117 che leva praticamente dalla concorrenza come competenza le grandi reti di trasporto, navigazione, porti, aeroporti civili, la produzione e trasporto di energia di interesse nazionale e le grandi reti di telecomunicazione di interesse nazionale, e poi una invece intervento di legislazione ordinaria di riforma delle procedure che sono attinenti sia alla programmazione che alla decisione e localizzazione degli impianti e delle infrastrutture e del procedimento di coinvolgimento delle popolazioni. Modello il débat public alla francese, tempi certi e clausola di chiusura anche lì dallo Stato. E l'assenza di questa clausola di chiusura dello Stato in termini chiari e l'assenza anche di una univocità costituzionale di quanto c'è scritto all'articolo 120 già oggi del titolo quinto, quello che ha obbligato la Corte Costituzionale in questi anni, di fronte all'esplosione della conflittualità, a dover lavorare con quello che c'era. Molte di queste sentenze si devono proprio all'attuale presidente pro tempore della Corte, al professor De Siervo, e quindi questo principio della leale collaborazione è diventato una roba che, se non si interviene, io in questo sono d'accordo con Bassolini, sul punto del 117 e sul punto della legislazione ordinaria, non si può pretendere che la Corte dica decida lo Stato, perché nella legislazione attuale non è proprio così. C'è il 120, ma viene poi da tutti contestato, perché in realtà le autonomie dicono, e no, il titolo quinto è servito proprio a dire che non è più lo Stato il depositario unico dell'interesse nazionale. E allora, se non facciamo questi interventi, temo che tutte le polemiche sulle opere siano destinate a non riuscire a ottenere poi tempi certi di realizzazione e quindi nessuna opera. Pubblicità. Allora, eccoci tornati in studio. Abbiamo illustrato in questa prima parte le proposte messe a punto in questa ricerca, nei lavori dell'Astrid. Abbiamo avuto il presidente Bassanini, l'articolo 117 da rivedere sulle competenze tra Stato e autonomia e un intervento di legislazione ordinaria di riforma delle procedure di programmazione, decisione, localizzazione degli impianti, infrastrutture strategiche di coinvolgimento della popolazione, tempi certi, clausole di chiusura certe. Sentiamo adesso l'opinione di alcuni nostri ospiti intorno per esempio alle materie di cui si occupano, cioè l'energia, appunto, le infrastrutture di trasporto. Carlo Stagnara, direttore di ricerche e studi dell'Istituto Bruno Leoni, la recente sentenza della Corte rispetto alla conflittualità che si profila, è inevitabile, del ritorno al nucleare, sarebbe solubile senza questi due interventi di cui ci ha parlato il professor Bassanini, secondo lei, allo stato delle cose? Ma la mia sensazione è che stiamo parlando contemporaneamente di due cose diverse. È molto vero quello che ha detto il professor Bassanini riguardo la situazione attuale, che di fatto crea un contesto aperto nel quale il processo autorizzativo può andare avanti indefinitamente E poi non dimentichiamolo, una volta che si sia chiuso può essere rimesso in discussione ancora e ancora attraverso ricorsi o attraverso, come dire, volta faccia da parte delle amministrazioni che hanno concesso le autorizzazioni, e questo è un problema. Un altro aspetto, che invece è quello al centro della Corte, che della decisione della Corte, che naturalmente si riferisce al diritto vigente, ma che esprime un principio che secondo me non si può mettere in discussione, riguarda il coinvolgimento delle comunità locali. Un conto è dire che questo coinvolgimento deve essere ordinato e deve seguire una serie di prescrizioni perentorie, per esempio riguardo i tempi, cioè le decisioni, siano esse positive o negative, devono avvenire entro tempi certi, siano 180 giorni, siano 360, siano 5 anni, ma se io affronto un percorso autorizzativo devo sapere quando avrò una risposta, non posso entrare in una roulette che non ho idea quando terminerà. Altra cosa però è pensare di scavalcare questo problema riconducendo tutto al centro, e questa secondo me sarebbe una soluzione inefficace a prescindere dalla sua compatibilità con l'ordinamento attuale, che è poi l'oggetto della decisione della Consulta. Sarebbe inefficace nel senso che, come dire, abbiamo esempi in cui alcune opere sono state autorizzate con tutti i bolli in ordine e poi non sono state potute realizzare perché a causa di difetti di comunicazione, a causa di insoddisfazioni locali che non sono state comprese e che non hanno trovato risposta adeguata, poi sono naufragate. L'esempio più clamoroso è quello del deposito per le scorie naturali Scanzano. In quel caso io non credo ci fossero problemi formali sul percorso autorizzativo, ci fu un problema sostanziale nel rapporto con la popolazione, cioè tu non puoi andare lì e dire vi metto un deposito di scorie e state zitti, devi far precedere questo step a una serie di confronti, chiarimenti, spiegazioni, con la fermezza del fatto che tu sai che stai facendo una cosa che hai diritto di fare e che ha tutte le caratteristiche necessarie in termini di sicurezza e quant'altro, ma anche con quella necessaria comprensione che deriva dal fatto che nel mondo di oggi, io aggiungo per fortuna, anche se forse stiamo assistendo ad alcune degenerazioni in questo senso, nel mondo di oggi non viviamo più in un mondo in cui lo Stato decide e il cittadino subisce. Un conto è definire i diritti di una società, di un'impresa a realizzare un'opera. Altra cosa è pensare che basti un pezzo di carta per fare qualunque cosa, e ciò si riferisce soprattutto, e questa è un'altra distinzione che secondo me è opportuno fare, alle opere pubbliche, le quali prevedono l'impegno di risorse pubbliche. Diversa la questione quando parliamo di opere infrastrutturali, una centrale elettrica per esempio, anche di grandi dimensioni, ma che sono opere private realizzate attraverso investimenti privati. Io credo che ci sia anche una differenza, come dire, qualitativa tra queste due fattispecie. Io, a dire la verità, siccome condivido il punto di partenza, cioè nell'attuale ordinamento, e come dice Stagnaro, io penso che anche con la sentenza della Corte della settimana scorsa, che in parole povere dice bisogna comunque coinvolgere la regione del sito, eccetera, l'indicazione è quella di una decisione, alla fine se non si arriva alla leale collaborazione che sia assunta in un Consiglio dei Ministri col Presidente della Regione, io penso che se non si cambiano le norme, come dice il professor Bassanini, questa roba porta a un vero potere di veto, perché un presidente della regione che si mette alla testa di una battaglia, no, alla centrale eccetera eccetera, poi esce un Consiglio dei Ministri sconfitto, quell'opera non si fa, per come funziona oggi l'Italia. Questa è la mia sensazione, non do una colpa alla Corte, ovviamente, dico che il legislatore però dovrebbe aprire gli occhi, e siccome oggi vara in queste ore proposte di modifica degli articoli 41, 97 e 118, forse il 117 serviva più che gli altri tre, visto che il professor Bassanini ci testimonia che in questi anni c'è stato un confronto bipartisan buono su questo, con convergenze in tutto lo spettro politico in cui si occupa davvero di queste procedure. Non lo so, io vi dico solo che ci sono 16 gare dell'ANAS, per esempio, sopra i 5 milioni dal 2007 in avanti, bandite, bloccate ancora prima del via, per impugnative, ricorsi, contenziosi, eccetera, eccetera. Cioè, questo è l'ABC di qualunque iter di localizzazione, autorizzazione a qualunque livello, anche quando c'è il sì del CIP, il progetto preliminare pronto e così via. E questo è un paese che si può illudere con la politica che dà la colpa agli altri, e con il centro contro la periferia, la periferia contro il centro, ma o qualche esempio di buone regole dagli altri lo piglia oppure rimane un po' così. Carlo Durante, che è amministratore delegato di Maestral Green Energy, quindi stiamo parlando di un gruppo privato in energie alternative, un po' di polemica in questi giorni, in questi mesi, perché c'è chi dice che bisognerebbe rimodulare gli incentivi troppo cospicui, troppo generosi verso alcune delle energie alternative nel nostro paese, dice speculazione, abbiamo letto la relazione annuale del Garante su questo, ma al di là di questo, cioè della parte incentivi e tariffe, la parte che riguarda gli iter di localizzazione, di autorizzazione, quando c'è un'impresa privata che fa energia alternativa, nell'esame comparato tra Italia e altri paesi, per voi che cosa significa come aggravi aggiuntivi o come vantaggi competitivi, se ce ne sono anche nel nostro ordinamento, Durante? Ci sono delle specificazioni, ci sono sicuramente delle enormi complicazioni. Allora, rispetto agli altri paesi noi abbiamo delle semplificazioni che sono per esempio il fatto che nel nostro ordinamento abbiamo pochi elementi cospicui che caratterizzano il fatto autorizzativo nel suo complesso, ma sono estremamente dispersi attraverso le differenti istituzioni, questo è il vero punto. Se guardiamo la Francia ha un procedimento di ciclo autorizzativo che è letteralmente delirante, e quello tedesco probabilmente è un altro esempio da non seguire. Però per quanto riguarda la Germania, ad esempio, nella sua complessità il parco eolico, fotovoltaico o qualunque altra infrastruttura debba essere autorizzata, una volta che è chiaro che supera quei vincoli dati dall'ecolistica locale, questo è il gioco di parole, effettivamente poi entra nella procedura e lentamente va fino in fondo. In Francia è piuttosto come l'Italia, quindi estremamente complesso. Noi che problema abbiamo? Abbiamo un problema di, come diceva prima l'ingegner Stagnaro, roulette, cioè non è mai chiaro, anche se sei arrivato fino in fondo, se ti verrà data un'autorizzazione o meno. Questo cosa significa? Significa anzitutto investimenti incerti, quindi rendimenti assolutamente aleatori di un'impresa che non si sa quando potrà cominciare e se potrà cominciare. Significa procedimenti che possono cambiare all'improvviso, che possono avere dei percorsi alternativi. In questo momento posso fare esempi i più diversi. Abbiamo un parco eolico che è dovuto salire fino alla presidenza del Consiglio dei Ministri per poter essere autorizzato e ancora non sappiamo se verrà autorizzato. Abbiamo degli altri parchi eolici che autorizzati da anni non riusciamo a costruire, perché dopo l'autorizzazione, anni dopo l'autorizzazione, arriva il solito ricorso alla TAR che blocca tutto. Allora, il vero punto è questa enorme complessità di fatto rende completamente incerto il risultato dello stesso procedimento autorizzativo, mentre in Germania, complicato quanto possa essere, però il risultato è certo, e in Francia, ostacolato quanto possa essere, ma il risultato è certo, tanto che si manda l'esercito se qualcuno tenta di ostacolare la realizzazione di una nuova infrastruttura. In Italia la complessità genera un'incertezza di fondo che permane fino a dopo addirittura la realizzazione. Abbiamo dei casi di ricorso al TAR quando i parchi sono già in funzionamento, allora questo diventa un fatto assolutamente paradossale, e che ha fondamentalmente due effetti. Un primo effetto è che ciò allontana le fonti di finanziamento dirette e indirette, cioè investitori puri e banche che possano finanziare le iniziative, e comporta inevitabilmente il dover tenere ancora più elevate le tariffe per continuare a tenere alto l'interesse per questo nuovo settore. Due risultati che non stupiscono ma sono terrificanti. Eccoci, tornati in studio, ci stiamo occupando di quali modifiche la politica dovrebbe mettere insieme, concordare su Costituzione, l'articolo 117, una mini riforma puntuale, ci dice il professor Bassanini, e quali nella legislazione ordinaria del processo di identificazione siti, procedimenti autorizzativi, coinvolgimento delle popolazioni per avere tempi certi, decisioni che possono arrivare, costi commisurati davvero ai progetti, ai costi e benefici, e non che lievitano come delle torte e maionese impazzite. Abbiamo con noi anche il Bruno Dardani, che è direttore del mensile Caporn, che è nato proprio tempo fa, esattamente ponendo al centro, si occupa proprio di questo tema, delle infrastrutture che nel nostro paese non si riescono a realizzare, quindi è nato proprio come iniziativa editoriale per dare una sponda a tutti gli attori pubblici e privati della filiera delle grandi infrastrutture italiane per capire come cambiare. E naturalmente è esattamente uno degli organi, andate a vedere il sito Caporn, che strutturalmente si occupa anche di capire tutto questo quanto vi costa, perché voi pensate, ascoltando, che noi stiamo parlando di cose per addetti ai lavori, guardate che opere in meno significa non solo una domanda di mobilità privata delle imprese che non viene soddisfatta, significano costi aggiuntivi, significano gli svantaggi competitivi, esternalità negative nei costi di trasporto, logistici, significano una componente elevata dell'aggravio che noi paghiamo in bolletta per l'energia, tanto per dirne un'altra. Della banda larga abbiamo già parlato. Allora, Bruno Dardani, innanzitutto buongiorno. Questa roba qui, quanto ci è costata in questi anni? Approssimativamente, ovviamente ci si divide, ma come ordine di grandezza riusciamo a far capire, non fare queste cose, quanto costa all'economia italiana e alla gente che ci ascolta? Prima di tutto buongiorno a tutti, ciao Oscar. Ma insomma, su questo della quantificazione dei costi si sono spesi fiumi di parole. L'ultimo dato, il più recente, dice da 2 a 4 punti del PIL, forse è il dato più... il ritardo infrastrutturale del sistema paese costa da 2 a 4 punti del PIL. È un paese che cresce a malapena dell'1% l'anno, la dice lunga. È una cifra enorme. Io credo sia molto peggio. Purtroppo col cinismo che è determinato da troppi anni sul marciapiede a esaminare questi problemi, devo dire che anche quando sento parlare di riforme istituzionali, riforme normative, tutte giustificate, mi fanno un po' ridere, nel senso che di fatto in questo paese le norme esistenti non vengono applicate, perché esistono anche delle norme. Io vorrei fare un esempio per tutti. Fino a 6 anni fa, un progetto che usciva dal CIP e veniva deliberato dal CIP era cantierabile. Negli ultimi 4 anni un progetto che esce dal CIP è carta straccia. Allora, questi interrogativi ce li dobbiamo porre. E questo, dico, stai dicendo, a prescindere dal fatto che poi non viene l'autorizzazione di tesoreria del ministro per metterci davvero i soldi dentro. Dici, a prescindere da quello è carta straccia. A prescindere da quello. Quello è il primo fattore, anche perché noi sappiamo benissimo che il Ministero dell'Economia, fissando alcune regole di spesa pubblica, ritiene compatibili alcuni progetti con questi tetti di spesa pubblica, e quindi indipendentemente da quello che esce dal CIPE, che ribadisco fino a un tot anni addietro era una sorta di Vangelo e il via libera definitivo, il semaforo verde definitivo per le opere, e al di là di quella spesa pubblica non si può spendere. Questo non si dice in giro e si continua a cullarsi nella farsa che l'opera è arrivata al CIP e quindi è cantierabile. Non è vero, quindi gran parte delle opere della legge obiettivo, circa l'80%, non sono partite e non partiranno. Questo è un primo dato di fondo. Con un risultato, noi secondo l'ultimo rapporto del World Economic Forum per quanto riguarda infrastrutture siamo 72esimi su 133 paesi esaminati. Questo è il senso del nostro gap competitivo. Dammi solo un esempio ulteriore da fare. Sulle contraddizioni pratiche, io vorrei lasciare un momento e fare un tuffo nella realtà, lasciare fuori la normativa e fare un tuffo nella realtà. In questi 2 giorni sono successe 2 cose, delle quali i giornali, con la solita disattenzione, si sono occupate poco. No, devo dire, solo 24 ore l'ha collocato in prima pagina. Caso Trieste-Venezia, caso Fiumicino-Olimpiadi. Caso Trieste, a Trieste Monfalcone, Unicredit da circa un anno, studia un progetto e si prepara, quantomeno ufficialmente, poi i soldi sul piatto magari non ci saranno, a investire 750 milioni di euro in un terminal privato per rilanciare l'Adriatico come hub del centro Europa per i container. In contemporanea il Consiglio dei Ministri, con alcuni ministri che non se ne accorgono, vara un piano per Venezia e quindi per il Veneto, nel quale si concede 1,5 miliardi di euro di finanziamento pubblico per costruire un terminal a 100 km di distanza da quello che Unicredit vuole fare a Monfalcone, esattamente a Venezia, un terminal offshore. Allora, questo Stato si deve anche decidere se ad esempio nelle infrastrutture non vuole investire o se vuole investire in quelle che fanno comodo anche agli equilibri politici. Secondo caso Fiumicino, da circa 1,5 anni le tariffe aeroportuali sono bloccate, congelate, l'aumento delle tariffe aeroportuali, e in una logica di mercato in tutta Europa, che quale sia la governance degli aeroporti, se siano pubblici o privati, gli investimenti vengono alimentati attraverso le tariffe. Questo blocco delle tariffe significa blocco degli investimenti su Fiumicino, il piano di sviluppo di Fiumicino non parte per ora, e nel contempo si culla il sogno di fare nel 2020 le Olimpiadi e nel 2025 il Giubileo. Non si potranno fare, lo si dica. Eh sì, questi esempi mi sembrano molto taglienti per dare l'idea dello stato delle cose e della confusione poi. Professor Bassanini, concludendo, io non le faccio domande politiche perché non è qui come interlocutore politico, le chiedo però, il livello di convergenza, di affinamento delle valutazioni che avete sperimentato in Astrid e nei dibattiti pubblici e nel confronto anche accademico e tecnico in questi anni, la rende in qualche maniera speranzoso che alla fine qualche cosa di quello di cui abbiamo parlato diventi realtà operativa, concreta e tradotta in norme nuove oppure no? Ma io penso di sì, le devo dire che un passaggio ulteriore, come accennavo, è il fatto che in questi ultimi 3 mesi si è fatto, lo stiamo per consegnare, è un lavoro molto importante per, sotto la regia di Castelli, del ministro Castelli, e collaborato Astrid con altre 2 think tank, la Fondazione Respubblica e Italia Decide, e abbiamo lavorato insieme ad alcuni grandi operatori del settore, ANAS, Autostrade per l'Italia, Ferrovie, eccetera, in modo da avere, come dire, anche loro il ritorno di esperienza, ecco, questa esperienza che adesso veniva abbiamo identificato una serie di altre possibili misure che potrebbero completare il quadro delle misure. Naturalmente c'è un problema che anche l'ultimo intervento sottolineava e che peraltro era già nell'introduzione tua, Oscar, cioè oggi le risorse pubbliche sono sempre più limitate e proprio per questo oggi è essenziale avere procedure certe e rapide che consentano di attrarre capitali privati negli investimenti sulle infrastrutture. Va bene, io in questo devo, ormai il tempo è scaduto, spero di non aver oggi troppo annoiato gli ascoltatori con cose che sono apparse a molti un po' troppo tecniche, non lo sono, datemi retta, questa è la grammatica e la sintassi dell'efficacia di un ordinamento per fare gli investimenti e crescere. Quando le cose non funzionano bisogna mettersi al tavolo e cambiare quello che non funziona. Io ringrazio il professor Franco Bassanini, Carlo Stagnaro, Bruno Dardani e Carlo Durante, l'appuntamento a domani, linea al giornale radio.